24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Ci sono circa 400 estremisti islamici addestrati da Al-Qaeda nel nostro continente e la maggior parte di essi si trova in Germania, Francia, Gran Bretagna e Belgio. Lo ha detto il coordinatore UE della lotta al terrorismo, Gild Kerkhove, spiegando come nel sistema di controllo europeo vi siano alcune falle che rendono più complesso il monitoraggio dei soggetti a rischio. Intanto, dopo la strage di Tolosa e l'operazione contro il killer, in Francia è polemica. Abbiamo evitato altri attentati e altri omicidi previsti per quella stessa mattina, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a dire che avrebbe fatto meglio e che bisognava agire in modo diverso. Così il presidente francese Sarkozy a proposito della strage di Tolosa. Poco prima il ministro della difesa pronunciava però parole opposte dicendo che si era perso tempo. La pensano come lui tanti francesi, ma non Bernard Squarcini, il numero uno dei servizi segreti, che dice non potevamo fare più in fretta. Squarcini spiega alla stampa che il killer di Tolosa era anche seguito dai servizi segreti francesi dal 2010, ma l'inchiesta condotta in quell'occasione non aveva mostrato nulla di sospetto. Merah era stato anche convocato dalla polizia nel novembre del 2011 per dare spiegazioni sul suo viaggio in Afghanistan e anche allora non era stato riscontrato alcun segno che potesse allarmare. C'è un'altra questione aperta ed è: si poteva evitare di uccidere il killer di Tolosa? Per il procuratore François Molin, che sentiamo, era impossibile, perché il 23enne sedicente jihadista serragliato nel suo appartamento avanzava e sparava anche quando è saltato dal balcone. In quel momento è stato colpito e un proiettile lo ha raggiunto alla testa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche che assumono anche un risvolto politico in vista delle elezioni presidenziali. Marco Mussanè, corrispondente da Parigi per Il Sole 24 Ore. La vicenda di Tolosa ha cambiato il volto della campagna elettorale, imponendo dei temi legati alla sicurezza, all'estremismo islamico, che erano stati relegati in secondo piano durante le prime settimane della campagna, in cui si erano privilegiati i temi economici. Ci sono una serie di domande che aspettano ancora una risposta. Teniamo presente che secondo gli esperti in Francia non ci sono più di 20-25 persone che sono state nelle zone tribali del Waziristan, di cui 6 nella regione di Tolosa. In testa a questa lista c'era proprio Merah. E dell'operazione condotta contro Mohamed Merah abbiamo parlato con Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di difesa. Lo sentiamo al microfono di Enrico Pagliarini. È andata come doveva andare, non c'era dubbio sull'epilogo, poteva andare meglio. C'erano dei fattori positivi, cioè il fatto che il criminale fosse senza ostaggi, fosse asserragliato in un posto ben identificabile. Dall'altro lato, in negativo, c'era l'ordine di prenderlo vivo. Se non ci fosse stato quest'ordine, ovviamente la cosa si sarebbe risolta in maniera diversa. Teniamo conto che questi sono sempre interventi delicatissimi che si fanno in una condizione particolare, in extremis. Poi il nostro terrorista si era ben preparato, era armato fino ai denti, aveva un giubbotto antiproiettile, si era messo in una stanza chiusa, non aveva alcuna intenzione poi di uscirne vivo, quindi questi sono fattori che complicano enormemente l'intervento. Direi che le forze speciali francesi e quelle inglesi lavorano molto bene e hanno degli ottimi standard. Poi nessuno è perfetto e nella storia di questi interventi ce ne sono tantissimi che sono andati male. Voltiamo pagina. L'Europa deve ritornare a investire in termini di idee e di mezzi nelle fabbriche urbane delle nostre città. Così la presidente del Comitato delle Regioni, Mercedes Bresso, durante i lavori del quinto summit delle regioni e delle città a Copenaghen. Oltre al verde, ai trasporti e ai servizi, le città devono essere in grado di includere tutte le componenti sociali, indipendentemente dalle loro capacità economiche. I giovani sono l'obiettivo esplicito del progetto di inclusione varato dalla Regione Toscana con il finanziamento europeo, 300 milioni in 3 anni per attirare i più giovani in città e favorire la loro crescita di competenze. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al microfono di Gigi Donelli. Il nostro progetto sostanzialmente copia i modelli di intervento a favore dei giovani che sono ormai piuttosto consolidati in Europa, in Spagna, più ancora in Francia, ancora di più in Germania. Noi vogliamo lavorare bene sui tirocini, dando dignità a questo momento di lavoro e formazione, anche con un riconoscimento economico, ma soprattutto stabilendo che abbiano davvero un contenuto qualitativo di formazione. Poi abbiamo stabilito il diritto al servizio civile, abbiamo dato un contributo ai giovani che vogliono uscire di casa secondo determinate regole, ovviamente di più a chi è in coppia con un figlio o con più figli. Abbiamo avuto risposte interessanti su tutti e tre questi piani. E poi abbiamo anche iniziative più specifiche verso l'intrapresa giovanile. Abbiamo messo la FIDI Toscana, che è la nostra finanziaria, a disposizione dei giovani, con un bando specifico che è poco conosciuto, ma ha avuto già 200 domande di finanziamenti agevolati per intraprendere attività imprenditoriali. Quindi si dimostra che quando ai giovani c'è qualcuno che li aiuta, facendo garanzie sul credito, c'è volontà di... Mi dicono anche che hanno presentato dei buoni progetti. E poi dopo c'è tutta la partita dell'agricoltura, su cui siamo impegnatissimi, anche qui con contributi molto importanti. È un pacchetto di proposte che sta riuscendo bene. Abbiamo appostato molti finanziamenti del Fondo Sociale, ma abbiamo fatto uno sforzo di finanziamento anche come Regione Toscana. Mi sono accorto che alla fine toccheremo qualcosa come 25.000 giovani all'anno, insomma forse 30.000, quindi è un'iniziativa che comincia ad avere un impatto sulla condizione dei giovani. Qualunque paragone con la Grecia è un'assoluta sciocchezza. Il ministro dell'economia spagnolo Luis de Guindos ribadisce da Singapore che il suo paese è pienamente impegnato a raggiungere l'obiettivo del deficit. Madrid ha approvato drastici tagli della spesa e una riforma del mercato del lavoro che punta a rendere più produttive le imprese. Nelle ultime settimane il differenziale di rendimento tra i bono spagnoli e il bund tedesco si è impennato oltre quota 560 punti base, portando il rendimento a superare la soglia del 5,5%, e la borsa di Madrid è stata maglia nera in Europa, dove i principali listini hanno chiuso positivi. Dopo una settimana in rosso, le borse europee, con un'accelerazione nel pomeriggio, riescono a chiudere la seduta sopra la parità. Così ieri Parigi ha guadagnato lo 0,2%, Francoforte lo 0,3%, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso a più 0,21%. Ancora acquisti su Buzzi, più 4,4%, seguita da Mediolanum, più 4,3%, che rimbalza dopo il calo di ieri e grazie alle ottime prospettive per il 2012, in evidenza anche Enel Green Power, più 4%, che ha presentato il nuovo piano industriale, e Diasorin, più 2,9%, che ha proseguito nel recupero dopo i deludenti dati 2011. In luce anche Exor, più 2,8%, mentre rallenta il Monte dei Paschi, meno 2% sulla cessione del 15% che fa capo alla fondazione. A2A, meno 1,8%, paga i conti 2011, mentre c'è stata anche la terza seduta consecutiva in rosso per Generali, meno 0,65%, dopo i conti diffusi martedì a mercati chiusi. Nelle ultime tre sedute il Leone ha così perso l'8,6%. Ciao Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Andiamo in Portogallo. Si è concluso a Lisbona, con pesanti cariche della polizia, lo sciopero generale di 24 ore contro le misure di austerità. Diversi manifestanti feriti, tra cui due fotografi che stavano testimoniando l'intervento degli agenti. Il sindacato che si oppone alla riforma del lavoro, che renderà i licenziamenti più facili, ha chiesto al governo di non piegarsi alle imposizioni di Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea. La mobilitazione ha avuto un'alta adesione, soprattutto nel settore pubblico. In Germania ha prestato giuramento Joachim Gauck davanti al Parlamento tedesco, il Bundestag e il Bundesrat a sessione congiunta. Il neopresidente tedesco si prepara al primo viaggio in veste ufficiale e sarà in Polonia la settimana prossima. Lancette avanti di un'ora, torna infatti l'ora legale. Ciò significa che, anche se soltanto per una notte, si dormirà un'ora in meno. L'ora legale entra in vigore contemporaneamente in tutti gli stati dell'Unione Europea, è già attiva dallo scorso 11 marzo in quasi tutti gli Stati Uniti. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.